Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Un'altra puntata speciale oggi per il nostro programma, puntata da non perdere perché si innesta nel solco del tema della riconnessione tra l'Italia e il suo enorme capitale umano espatriato. I giovani imprenditori di Confindustria hanno avviato da circa un anno un percorso in questo senso. Vi abbiamo già raccontato la prima tappa lo scorso inverno con la cronaca della prima conferenza Little Italy Big Italians a Pesaro. La seconda tappa ci porta invece dritti a Parigi, dove cinque giorni fa una delegazione dei giovani imprenditori ha incontrato 50 giovani professionisti italiani al lavoro nella capitale francese. Manager, ingegneri, consulenti, analisti, architetti, avvocati, informatici. Giovani altamente qualificati con la voglia di tornare a dire la loro in Italia. Un piccolo passo concreto verso la riconnessione. Perché non c'è solo un'Italia che fa fuggire i suoi migliori talenti. Sta cominciando a nascere anche un'Italia che va a riprenderseli. Buon pomeriggio da Parigi, dove ci troviamo per una puntata che vogliamo resti una pietra miliare nella storia di giovani talenti. Oggi abbiamo la prima tappa di quello che ci piace definire un processo di riconnessione del sistema paese con i suoi giovani talenti all'estero. Lo facciamo ospiti dell'Ambasciata d'Italia con il supporto del Ministero degli Esteri e lo facciamo grazie anche all'intraprendenza dei giovani imprenditori di Confindustria che su questo progetto stanno puntando. Lo facciamo anche con cinque giovani professionisti italiani al lavoro in Francia, rappresentanti simbolici di quell'enorme patrimonio di capitale umano che vive e lavora all'estero. Qualche dato per cominciare: secondo l'AIRE, l'anagrafe residente all'estero, la Francia resta la quarta destinazione preferita in Europa dai nostri 20 quarantenni espatriati nel 2011, dopo Germania, Gran Bretagna e Svizzera. Se prendiamo il totale degli espatriati nell'ultimo decennio su scala mondiale, la Francia è la quinta destinazione con 32.330 italiani che vi hanno trasferito la residenza, quasi 4.000 nel solo 2010. Jacopo Morelli, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, perché questa missione qui a Parigi con la nostra comunità di professionisti under 40? Perché è un punto di partenza in una fase storica importantissima per l'Italia e l'Europa. C'è bisogno di dialogo, c'è bisogno di leadership, c'è bisogno di energie nuove e per questo per noi come giovani imprenditori di Confindustria è molto importante potersi confrontare con coetanei che hanno fatto una scelta di vita prima ancora che professionale in un altro paese importante dell'Europa che è la Francia, per ascoltare come vedono l'Italia dalla Francia, come possiamo insieme lavorare nell'interesse dell'Italia e dell'Europa e anche lì come rendere il nostro paese più attraente per i talenti che dall'Europa e dal resto del mondo vogliono o dovrebbero scegliere di vivere nel nostro paese. Andiamo a conoscerli allora, andiamo a conoscere i nostri cinque giovani professionisti che sono qui con noi. Chiedo a ciascuno di voi di raccontare in breve la propria storia. Iniziamo con Silvia De Colle, 27 anni, marketing and press manager per Sotheby's. Sono arrivata a Parigi nel 2008 per fare un master all'università HEC qui a Parigi. Era un programma di double degree con l'università Bocconi di Milano e ho cominciato con uno stage, poi ho avuto un contratto, insomma sono rimasta qui a Parigi da ormai 4 anni. Morena Bernardini, ingegnere aerospaziale a EADS. Sono arrivata a Parigi nel 2009 in seguito alla richiesta di EADS dopo la mia tesi. Ho iniziato come ingegnere aerospaziale e ora mi occupo di strategia per il gruppo franco-tedesco. Carlo Stoisser, ingegnere per il colosso francese EDF. Sono arrivato nel 2003 a Parigi in seguito a uno stage. 4 anni di ricerca e sviluppo per la sicurezza degli impianti nucleari e adesso responsabile tecnico progetto. Claudio Panefresco, direttore commerciale per Nuke Advisor. Io sono arrivato in Francia nel 2000, ho iniziato con uno stage presso il commissariale Energia Atomic, sono ingegnere nucleare e dopo ho ricevuto delle offerte all'estero, ho viaggiato in diversi paesi e finalmente sono ritornato qui nel 2010. Emanuele Camera, last but not least, IT Purchasing Manager per SFR. Che è un veterano, sono partito nel 98 per un programma di doppia laurea, ho conseguito quindi la laurea al Politecnico di Milano in ingegneria aerospaziale e il diploma ingegnere all'École Centrale. Dopo aver lavorato in ambito internazionale da ArcelorMittal anche in Lussemburgo, occupo attualmente il ruolo di responsabile di dipartimento acquisti dall'operatore telefonico SFR. Un rapido spunto per ciascuno di voi adesso. Andiamo su alcuni temi che voi avete sollevato nelle email che avete scritto a giovanitalenti@radio24.it per presentarvi. E iniziamo con Morena Bernardini. Morena, allora, ci spieghi perché gli outsider bravi fanno carriera più rapidamente all'estero, come c'è scritto? Quali sono i meccanismi che fanno funzionare questo sistema? Inizierei da subito col dire che la Francia ha un sistema molto particolare, il sistema delle grandes écoles. Quando vieni da una delle grandi scuole francesi, che sono anche le più costose, è normale che tu sia un manager e un direttore del domani. Tutti noi che abbiamo iniziato le nostre carriere internazionali in Francia ci siamo confrontati con questo sistema ed è proprio da qui che misurerei la tenacia di un espatriato che arriva in Francia ed arriva ad avere una carriera importante in Francia. Ci sono altre due parole chiavi per la carriera: potenziale e negoziazione. Gli alti potenziali sono scovati dai cosiddetti chasseurs de tête in Francia e seguiti dai comitati di carriera delle grandi aziende per essere i manager di domani. E negoziazione, perché tutto in Francia, soprattutto le posizioni di carriera, fanno seguito ad un deal, ovvero in Italia quando ci viene offerto un lavoro ci viene data una descrizione tecnica e lo stipendio. In Francia si parte da subito con il 20% e più e si negozia tutto il resto. Claudio, tu in una multinazionale italiana hai lavorato e dici nel 90% dei casi si ha bisogno della classica spintarella per fare carriera. Allora, Jacopo Morelli, voi stessi giovani imprenditori avete detto il 43% dei giovani trova lavoro in Italia grazie a familiari e amici, i salari crescono solo con l'anzianità. Claudio, quale ricetta possiamo rubare ai francesi per valorizzare il merito? Ricetta: nelle industrie francesi, diciamo, c'è molta meritocrazia. Io ho lavorato per tante industrie straniere e finalmente volevo tornare in Italia nel 2005 e sono stato assunto da una grande multinazionale italiana dove sono stato quasi 5 anni e malgrado le mie competenze e capacità effettivamente non riuscivo a fare carriera, a avere lo scatto di dirigente. Quindi mi sono messo nel mercato e effettivamente ho visto che questa posizione a cui ambivo mi era offerta da altre società all'estero e quindi non ho esitato a lasciare il lavoro in Italia. Emanuele, è interessante quello che ci scrivi, cioè tu dici: vorrei sottolineare i motivi che mi spingono a rimanere qui in Francia. Quali sono? Beh, nemmeno in Francia si naviga in acque tranquille al giorno d'oggi, no. Ma esistono sacchi di merito, come direbbe Roger Abravanel. E quel merito in cui in Italia si parla solo ora, e devo dire che a livello universitario l'École Centrale mi ha permesso di conoscere imprese nelle quali avrei potuto lavorare. Chi mi presentava queste società era qualcuno che aveva più o meno la mia età e che era entusiasta. Persino ora che sto frequentando una formazione a Londra, la London Business School, devo ammettere che anche lo Stato aiuta in certo modo. Ci sono incentivi per farlo, per conciliare la vita professionale e extra professionale educativa. Insomma, una buona spinta nella buona direzione. Silvia, tu ami l'arte, vi hai dedicato la tua carriera e l'Italia è un paese che ha un enorme patrimonio artistico, sappiamo anche con quanti problemi di gestione. Potrebbe farne un punto di forza della propria economia, utilizzando forze giovani, fresche, competenti, come? Certamente, sono sicura che l'arte sia un punto di sviluppo fondamentale per l'Italia. L'Italia è un paese ricchissimo d'arte e spesso quest'arte non è messa in valore. Perché il governo non fa qualche cosa per le formazioni oppure cerca di incentivare di più il turismo? Penso che ci siano veramente vari fattori da mettere in valore per questo. Carlo, il giovane professionista che pensa, dice, out of the box, fuori dagli schemi. Con te vorrei toccare il tema dell'associazionismo dei giovani professionisti italiani all'estero, molto diverso da quello degli vecchi emigrati. Con alcuni colleghi hai creato il gruppo parigino degli alumni Politecnico di Milano. Allora, secondo te quanto queste associazioni nuove, anche online, possono rappresentare punti forti di contatto con l'Italia, col sistema paese, per mettere in rete questa Italia diffusa? Si crea un sistema virtuoso in cui, grazie all'organizzazione di eventi, grazie a serate a tema, si possono conoscere e frequentare personaggi dell'industria, del mondo dell'impresa. E come si traduce in ambiti pratici questi legami tra Italia e Francia? Riceviamo delle offerte di lavoro, facciamo tutoring per i ragazzi che vogliono inserirsi in aziende francesi, oppure ci sono delle aziende francesi che ci contattano per conoscere profili potenzialmente interessanti per l'Italia, per il mercato del lavoro italiano. O infine ci sono delle aziende italiane che cercano dei profili, sia ingegneri sia architetti, che abbiano avuto già esperienze in Italia o all'estero. Simone Mariani, vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Allora Simone, quello di oggi non è un incontro casuale, anche perché fa parte di un percorso preciso che voi come giovani imprenditori avete intrapreso nel processo di riconnessione. Cosa avete fatto finora e soprattutto cosa intendete fare a partire da oggi? Beh, il processo è iniziato già da oltre un anno con un evento importante, Little Italy Big Italians, con una collaborazione molto forte proprio con Radio 24, con voi. Quello di oggi è una delle tappe, gli stimoli che questi colleghi qui a Parigi ci stanno dando, credo testimonino ulteriormente l'importanza di questo tipo di appuntamenti. Avremo un altro evento il prossimo novembre proprio per dare seguito e continuare la riconnessione con gli italiani, giovani talenti in giro per il mondo, non solo in Europa. Credo che ci saranno importanti novità fin dal prossimo settembre proprio per strutturare maggiormente una piattaforma con cui ricollegare, riconnettere domanda e offerta tra Italia e l'estero. Per chiudere questa prima parte di Giovani Talenti, modifichiamo la nostra tradizionale domanda di rito e a tutti i nostri 5 giovani professionisti chiedo quali sono le vostre richieste e proposte al Sistema Italia e ai giovani imprenditori che sono qui per ascoltarvi affinché possiate tornare e contribuire al rilancio del nostro paese. Partiamo da Silvia. Innanzitutto per l'ambito della cultura io chiedo un rilancio del settore dell'arte, maggiori finanziamenti, una maggiore attenzione a questo settore che è così importante per l'Italia e che è spesso lasciato un po' in disparte. Claudio. Sicuramente incentivare più la meritocrazia e condannare la classica spintarella di cui parlavamo prima. Emanuele? L'Italia resta un paese in deficit su trasporto e infrastrutture. Dateci un terreno di gioco nel quale possiamo giocare, dateci un ambito economico nel quale possiamo utilizzare le nostre forze e utilizzare le forze del paese. E Carlo? È inspiegabile un 50% di salario in meno per professionisti che lavorano in Francia o in Italia, quindi in un mercato di lavoro unico, quindi defiscalizzare le imprese in cambio di un adeguamento salariale alla media europea. Queste le domande, tra poco le risposte. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata speciale da Parigi vi stiamo raccontando l'incontro tra i giovani imprenditori di Confindustria e un gruppo di giovani professionisti espatriati in Francia. Lo facciamo grazie al supporto e alla partnership del Ministero degli Esteri e dell'Ambasciata. Stiamo scrivendo, ci tengo a dirlo, una piccola ma significativa pagina di storia nella riconnessione del sistema paese con l'Italia di talento che vive oltre confine. Prima di dare la parola a Jacopo Morelli, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, vorrei chiedere a Morena Bernardini, la nostra 29enne ingegnere aerospaziale, di leggerci un passaggio della lettera che ci ha inviato. Tornerei se. Tornerei in Italia se alla mia età la mia opinione fosse presa in considerazione come lo è in Francia. Tornerei in Italia se avessi uno stipendio che mi permettesse di comprare un appartamento e pensare ad una famiglia. Tornerei in Italia se quando rimarrò incinta potrà vivere questa gioia senza il timore e talvolta la certezza di perdere il posto. Tornerei in Italia se le aziende dessero valore al merito. Tornerei in Italia se le aziende smettessero di fare contratti a progetto, spesso anche di soli 2 mesi, lasciando sempre a casa i trentenni perché costano di più. Tornerò in Italia quando gli italiani saranno prendersi cura della meraviglia che il nostro paese emana ogni volta che lo sorvolo su un aereo diverso. Jacopo Morelli e Simone Mariani, presidente e vicepresidente dei Giovani Imprenditori. Avete ascoltato le richieste di questi giovani all'Italia, o meglio al Sistema Italia. Io aggiungo che avete dimostrato coraggio a venire qui ad ascoltarli perché avete preso sulle spalle una grandissima sfida. A entrambi chiedo non solo risposte, ma anche, se volete, spunti, proposte, riflessioni. Jacopo Morelli. Ma più che coraggio, credo sia semplicemente un dovere, anche perché abbiamo la responsabilità come giovani imprenditori di Confindustria di rappresentare oltre 13.000 colleghi. Dico che quello che ho sentito, cioè le vostre proposte sono le nostre proposte, come è il nostro impegno quotidiano in Italia, una continua battaglia sul fronte del merito interno al sistema delle imprese, esterno. Ho sentito la parte per esempio relativa a defiscalizzare, a diminuire in generale la pressione fiscale sul lavoro e poi regole del lavoro in grado di premiare la produttività, il merito, e invece in Italia continuiamo a avere anche con l'ultimo disegno di legge un sistema che si basa troppo sull'anzianità e poco ancora sul merito. Quindi il nostro impegno assoluto è faremo tutto quello che è necessario, ma ci piacerà prima di tutto poter unire le forze con voi che siete qua in Francia. Simone Mariani? Credo sia dovere, un ruolo dei giovani imprenditori, quello di fungere da cassa di risonanza proprio per la voce di questi giovani che hanno affermato con grande forza la volontà di tornare eventualmente in Italia per dare un contributo al nostro paese. Mai come in questo momento l'Italia ha bisogno dei giovani, ha bisogno di persone di talento, persone che hanno esperienza forte e comprovata a livello internazionale sul campo, e quindi è assolutamente con questo spirito che i giovani imprenditori sono oggi qui a Parigi e faremo il possibile per dare seguito a queste proposte, a questi suggerimenti dei nostri colleghi. Anche col progetto Little Italy Big Italians che abbiamo e stiamo raccontando a giovani talenti. Sottosegretario Marta Dassù, sottosegretario agli esteri, istituzionalmente quale apporto può fornire il Ministero a questo processo di riconnessione? Io do due spunti. Il primo riguarda la quantificazione del fenomeno, il secondo anche l'uscita dal cliché che vuole un po' solo i ricercatori licenziati andare via dal paese. Non è vero, lo vediamo anche qui, sono manager, sono ingegneri, sono addetti stampa, insomma c'è di tutto. Non c'è dubbio, ho sentito anche cose giustissime, sono d'accordo con voi che ad esempio la meritocrazia è assolutamente indispensabile perché il nostro paese torni ad essere attraente. Insomma, siamo in una fase in cui parliamo di brain drain, voi siete toccati da questo fenomeno, mentre quello di cui avremmo bisogno è una circolazione dei cervelli, cioè di un paese nostro in cui la gente possa decidere di andare ma anche di tornare, cosa che non è. Il Ministero degli Esteri fa su questo un suo sforzo insieme al Ministero dell'Istruzione dell'Università. Abbiamo fatto un primo grosso seminario in aprile. È in effetti rivolto più alla parte scientifica, agli scienziati, ma è importante anche quello. Stiamo costruendo un database e abbiamo creato una task force in cui saranno proprio loro, cioè proprio questi scienziati che vivono all'estero, a fare le loro proposte per migliorare la situazione. Quindi io direi a questi cinque talentuosi nostri connazionali che lavorano in Francia, queste proposte che voi fate è giusto che le facciate voi. Possiamo pensare a una task force con Confindustria di tipo più economico, manageriale, industriale, e credo che questo cambio sia assolutamente indispensabile anche per l'istituzione in genere, per migliorare l'Italia che ne ha davvero bisogno di essere migliorata. Giovanni Caraccio, l'ambasciatore d'Italia in Francia, lei vive quotidianamente a contatto con la nostra comunità. È un fenomeno che vede in crescita quello dei giovani che vengono qui? Non solo è certamente un fenomeno in crescita, in questi tre anni noi abbiamo dato molta più retta alla dimensione dei giovani imprenditori o ricercatori italiani, tanto che io credo che mai come in questi tre anni l'ambasciata sia aperta a tutto questo. Jacopo Morelli, prima di chiudere, un messaggio ai giovani italiani che ci stanno ascoltando. È giunto il momento di fare coalizione generazionale? Assolutamente sì, soprattutto è importante rendersi conto che tutti dal primo all'ultimo siamo utili al paese. La prima cosa che dobbiamo fare in questo momento è avere capacità a volte di anteporre a quello che può essere, per dirla alla Gramsci, al pessimismo della ragione, l'ottimismo della volontà in tutto quello che stiamo facendo, mettere sempre un passettino il cuore avanti all'intelletto. E questa è stata una bellissima, anche oggi penso, giornata per l'Italia e per dimostrare che c'è volontà di fare bene insieme. Grazie a Jacopo Morelli, e prima di chiudere il consiglio che dareste a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio. Partiamo da Carlo. Tre consigli: serietà, perché è ciò che richiede il mondo del lavoro, determinazione per superare le difficoltà, e ottimismo, perché è necessario credere in noi stessi. Silvia? Il vero consiglio che darei è che se hai un sogno, seguilo fino in fondo, costi anche andare a vivere all'estero, costi anche lasciare il proprio paese per poi tornarci un giorno, ma segui questo sogno. Morena? Aprirsi alle culture, imparare le lingue, fare delle esperienze all'estero, immergersi nella cultura, perché permette di elaborare le migliori strategie per fare business in quel paese. Emanuele? Viaggiate, guardate, imparate e, perché no, tornate e replicate. Claudio? Mettersi in gioco, fissarsi degli obiettivi e cercare di raggiungerli. Se non si trovano in Italia, provare all'estero, perché probabilmente si riescono a raggiungere lì. Sottosegretario Dassù? Io vorrei dire che questo è un governo che ascolta e stiamo facendo tutto il possibile anche in questo campo. Non so quanto riusciremo, ma sicuramente vogliamo riuscire.